noi stiamo ultimando la prima fase, che era quella urgente del collegamento tra i vari elementi strutturali verticali e orizzontali, la presenza di elementi di tamponatura non adeguatamente ancorati. Questo serviva per il documento provvisorio. Ok, lo stiamo facendo, è un mese che lavoriamo, se lei passa per il cratere vedrà centinaia di gru. Punto numero due, su cui noi abbiamo come Confindustria Emilia Romagna, Modena, Ferrara presentato un emendamento in un'audizione parlamentare che abbiamo avuto l'altro giorno. Mettere in 18 mesi, raggiungere, diciamo, il livello di sicurezza pari al 60% della sicurezza richiesta a un edificio nuovo, significa, secondo molti esperti, professori universitari, significa che è più conveniente abbattere e costruire il nuovo. Allora, qui è un problema economico, perché se non ci saranno aiuti particolari in 18 mesi, significa che noi stimiamo un 25-30% di imprese che non potranno fare questo adeguatamente e quindi ripartire. Quindi il problema della sicurezza rimane fondamentale, bisogna però che la collettività sappia che se sono richiesti questi limiti, molti non ce la possono fare.